La sistemi una volta, due volte, tre volte, ma mica puoi sistemare tutti i giorni, perché la vedono che la sistemano e tanto dicono c'è i coglioni che la sistemano, ci facciamo i cazzi nostri noi, no? Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ammetto di aver alzato fino al livello della sordità e il volume delle cuffie per salutare con quella che è forse la mia canzone preferita del premio Nobel per la pace, per la letteratura, Bob Dylan. Nel giorno in cui un altro grandissimo premio Nobel, il nostro grandissimo premio Nobel, Dario Fo, è passato da un'altra parte. Da un'altra parte. Ha traslocato. Sì, ciao Pierluigi. Ha traslocato, Pardo. Immaginiamo, col sorriso sulle labbra, nei limiti ovviamente del possibile, con tutto quello che ci ha lasciato in termini di creatività, di ironia, di autoironia. E questa invece è la canzone dedicata a Robin Carter. Robin Carter, esatto, certo. Che è un pugile afroamericano che venne imprigionato. Insomma, quindi una canzone che parla di boxe e anche ovviamente di diritti civili. E non sono un esperto di premi Nobel, però mi sembra onestamente che sia storica questa decisione, perché sì, è una decisione che porta quello che in qualche modo già si sapeva, cioè che le rende però assolutamente plastico, assolutamente visibile agli occhi di tutti, il fatto che la letteratura possa passare anche per Luigi, musica. Se c'è un poeta nella storia della musica, quello si chiama Bob Dylan. Assolutamente. Che assolutamente. Poi le abbia cantate le poesie, che non le abbia soltanto, tra molte virgolette, scritte sui libri, è un'altra storia. Bentornato da Monte Carlo. Sì, senti, sì, apriamo con lo scoop. Come dice, sì. Biscardi? Ho lo grandissimo scoop adesso con la moviola in campo. Moviola in campo non c'entra nulla. Non c'entra nulla, però grandissimo scoop di Marco Bellinazzi. 800240024, l'abbiamo ricordato? Ancora no, grazie. 349-238-6666, l'abbiamo ricordato? No, okay. Ti ringrazio, scusami per le dimenticanze. Ormai sto diventando anziano. Allora, Marco Bellinazzo sul Sole 24 Ore di oggi, ieri ne abbiamo parlato a lungo, ha fatto nomi e cognomi, non so, redditi dei nuovi proprietari del Milan. Ciao Marco. Ciao, buongiorno. Raccontaci tutto. Beh, più che dei nuovi proprietari, parliamo dei possibili nuovi proprietari, perché ci sono, diciamo, due notizie in una. La prima è questa della famosa lista a cui accennavamo ieri, di 11 soggetti che è contenuta nel contratto preliminare, e i nomi, qualche nome era circolato, insomma, li abbiamo scritti, insomma, chi vuole può andarseli a leggerseli con calma e con dovizia e attenzione, insomma, su Calcio e Business, sul sito del Sole. La sorpresa appunto è che ci sono due colossi finanziari del calibro di China Construction Bank e Ping An. Ora, Ping An è la più grande assicurazione cinese privata, China Construction Bank è la quinta banca al mondo per capitalizzazione, banca che fa riferimento al governo cinese. Dici, qualche soldo c'è? Qualche soldo c'è, l'anno scorso capitalizzava 170 miliardi di dollari, qualcosa del genere. Ora, prima di aprire le fanfare, bisogna spiegare perché io parlo di possibili investitori, perché la particolarità che ho scoperto appunto leggendo avendo modo di guardare quello che era il contratto preliminare in gran segretezza, sbirciando al buco della serratura, è che quando è stato chiuso appunto l'accordo preliminare è stato indicato una lista di possibili investitori, è scritto maybe, quindi possibili investitori, sì, che hanno dato, diciamo, disponibilità a coprire quote del fondo. Questo non significa, insomma, che sono nomi messi lì a caso, sono dei soggetti che hanno dato disponibilità a investire in proprio conto o magari eventualmente per conto di clienti o altri soggetti. È chiaro che ci sono due colossi di questa portata, insomma, delle garanzie in più ci sono sul closing e sul buon esito dell'operazione, però è evidente che poi al momento del closing potrebbe essere diversa la lista dei soggetti, o dietro questi soggetti che hanno agito magari per conto di loro clienti, appunto, potrebbero esserci identità di altre società, di altre sì, aziende. Sì. Però in questo modo, diciamo, come dire, qualche chiarezza in più sul percorso che si sta facendo sulla sponda rossonera c'è da questa mattina, ecco. Beh, possiamo, allora, per i tifosi rossoneri questo 13 di novembre potrebbe essere una data importante. Una data importante, una buona giornata. Stavo riflettendo sul fatto che magari, non voglio tornare sull'argomento Maldini, se ne avete voglia voi 800240024, però insomma, forse poteva aspettare ancora un attimo, al di là di tutte le ragioni, a valutare la solidità del progetto rossonero. Questa è la mia sensazione. Io ho la sensazione, insomma, che essendo Fininvest non l'ultima delle società, diciamo, delle aziende abituate ad agire in ambito finanziario, insomma, delle verifiche evidentemente su queste liste devi averle fatte anche quando erano magari note a noi, certo, giornalisti, insomma, e quindi evidentemente se si è andata avanti perché delle certezze c'erano. Per dovere di cronaca dobbiamo dire che sono state sollevate dubbi sulla veridicità di alcuni documenti finanziari forniti da chi è a capo, diciamo, di Sino Europe, cioè il veicolo che acquisterà il Milan, sollevate da Bloomberg, dallo stesso settimanale cinese Caixin, per cui bisogna, come dire, sempre andarci con i piedi di piombo su questa vicenda che ci ha insegnato ad avere mille risvolte e mille sorprese. Chiaro, poi quando non c'è chiarezza anche le illazioni si sprecano, si moltiplicano. In questo momento però abbiamo, diciamo, un piccolo contributo dato alla causa, fissato almeno dei nomi, un percorso, sì, e vedremo da qui al closing se poi questa lista, ripeto, di 11 soggetti. C'è anche una piccola banca della provincia mongola della Cina, tra le curiosità, saranno poi effettivamente i soggetti che acquisteranno piccole quote del fondo che sarà proprietario del Milan, o se saranno altri soggetti, insomma, il closing si dovrebbe realizzare presto, vedremo cosa accadrà. Grazie Marco, un abbraccio. Grazie, a presto. Grazie. Pier, ci fermiamo per Poi il tuo amato traffico. 800240024, fra poco. Tutti convocati. Qui è altro che ciupiti di Bobo Vier. Tutti convocati. Senti Pierluigi Pardo, vorrei chiudere un capitolo che abbiamo aperto tre giorni fa. Sì. Quello dei giovani, il capitolo giovani. Moda o merito? Sembra il titolo di un convegno, i giovani, moda o merito. Moda o merito. Modera il professor Filippo Galli, come va? Buongiorno a tutti, non c'è nessun professore, ahimè. Come stai? Ciao Pierluigi. Fatta bene la diagonale difensiva? Hai fatto bene? Sì. Tutto abbastanza bene. Ci siamo incontrati durante lo speciale per gli 80 anni di Berlusconi, devo dire, un'atmosfera fantastica, proprio zeppa di storia del calcio. Senti, ma tu questo... Aspetta. Risentiamo Dorico? Voglio far sentire Mondoni. Filippo, visto che siamo amici, ci conosciamo da tanto tempo, faccio sentire quello che ha detto ieri Emiliano Mondonico. Poi mi autorizzi a rendere pubblico il messaggio che mi hai scritto? Sì. Va bene. Assolutamente. Mondonico. I giovani che meritano la meritocrazia. giovane, meritocrazia, ma non devono essere la moda, non devono essere un alibi. In questo momento non ho ancora capito se tutti questi giovani che giocano nel campionato italiano giochino perché meritano o giochino perché in questo momento è di moda, oppure è un alibi. Alla fine, se le cose vanno bene, sei un eroe, se le cose vanno male, i giovani bisogna aspettarli, bisogna vedere, bisogna di qui, una balla di qui, una balla di là. Allora, mentre Mondonico diceva queste parole, Filippo Galli mi ha inviato un SMS con scritto basta punto esclamativo, giusto Filippo? Sì, perché a me spiace che Mister Mondonico così dia una versione, una visione così negativa del fatto che vengono impiegati dei giovani. Dopodiché siamo tutti d'accordo che i giovani devono essere impiegati e gli allenatori li impiegano soltanto, e che gli allenatori li impieghino soltanto se questi giovani hanno qualità, perché insomma non credo che nessun giocatore si arrischi a mettere in campo un giovane se non ritiene che possa essere funzionale la sua idea di gioco, al piano tattico che ha stabilito per una partita. Quindi così insomma l'ho ritenuto un intervento che andava forse non tanto contro i giovani, ma forse anche contro gli allenatori, no, ma anche perché gli allenatori in generale, cioè non lo so. Al di là del principio che dicevamo ieri, che insomma il mondo, almeno per me, ma anche per Carlo, per tutti noi, credo, non si divide in giovani e vecchi, ma in bravi e meno bravi. Quello che ho esattamente detto pochi attimi fa. Al di là di questo, che è indiscutibile, però nel calcio italiano, e se vogliamo possiamo fare un discorso un po' più complessivo, secondo me esiste una scarsa propensione al rischio, cioè tante volte ci troviamo a dire guarda in Inghilterra che ci sono ragazzi di 18-20 anni che fanno l'esordio tranquillamente senza grandi pressioni, e da noi invece c'è un po' più di ritrosia da questo punto di vista. Sì, assolutamente, poi appunto bisogna andare a capire se i giovani all'estero sono più pronti rispetto ai nostri, bisogna capire se qui in Italia manca, come sempre diciamo, un pezzettino, no? per la formazione dei nostri giocatori, cioè quando arrivi alla primavera forse non è è un campionato o è un percorso che ancora non li prepara al salto in prima squadra, e quindi anche l'allenatore della prima squadra deve saper gestire, deve doverlo gestire il giovane prima di poterlo impiegare con più continuità. Però sediamoci a un tavolo, siamo sempre qui, non è, in pochi minuti è difficile, no? Poter trovare una soluzione a questo tipo di problema. Io dico che per quanto riguarda noi, stiamo cercando di... Per quanto riguarda voi, mi pare che tra Donnarumma, Calabria e quelli che stanno uscendo dalla semina che tu hai effettuato, ma già da qualche anno... No, non ho effettuato, tutti ci lavorano tutti seminato, insieme. Non hai zappato, non hai seminato. No, ma si lavora vabbè, si lavora insieme. Merito della squadra, ringrazio il mister, dai Filippo. No, ma davvero, insomma, io credo che siano importanti le persone che lavorano con i giovani, tutte quante, indistintamente dal ruolo che esse hanno, perché ci sono talmente tanti elementi che poi possono favorire o meno la crescita e la formazione di un giocatore nella giusta direzione, che davvero insomma dobbiamo stare attenti, no? A prenderci tutti i meriti. Io sono contento perché sono responsabile del settore giovanile che arrivino giocatori alla prima squadra, però ancora tanto dobbiamo fare, ancora tanto dobbiamo lavorare con questi ragazzi. Senti, che idea ti sei fatto conoscendolo bene di Maldini, di tutta la questione? Sapevo che tu saresti arrivato lì. Ma tranquillo, puoi anche fare no comment, non c'è nessuna pressione particolare. No, vorrei capire se si vedono i cinesi, ne parlavamo adesso con Bellinazzo all'orizzonte, se capita di vederli la stima per Paolo sia totale. Paolo la stima come giocatore, come uomo, io tra l'altro sono in contatto con lui con continuità, anche perché è uno dei suoi figli ancora qui con noi, è un 2001. Com'è? Quindi è un buon giocatore, molto molto interessante, sicuramente un giocatore di talento, e questo talento dobbiamo essere noi bravi a farlo esprimere completamente. Sarebbe clamorosa la terza generazione. Forse non si è mai vista nella storia del calcio, no? Insomma, riparlavamo degli Ossola, però gli Ossola erano in parte calcio, in parte basket. Si potrebbero riscrivere proprio le leggi della scienza, del DNA, perché insomma, da Cesare a Paolo e fino alla terza generazione sarebbe clamoroso. Comunque, scusa, ti ho interrotto. Cioè, che idea ti sei fatto nel leggere quell'intervista e poi il suo post su Facebook? Ma insomma, lui ha preso questa posizione, ha preso questa decisione, ha deciso di, di esprimere attraverso Facebook, quindi ripeto, se, insomma, io credo che non si possa discutere Paolo da questo punto di vista. Ha avuto degli incontri, si è chiarito con quella che sarà la nuova dirigenza, comunque con quelli che sono i rappresentanti del nuovo Milan, e quindi ha poi preso le sue decisioni. Credo che si debba rispettare tutto e tutti, sia da una parte che dall'altra, e quindi insomma, come dicevo qualche giorno fa, fare un po' un passo indietro, no? Anche rispetto a queste decisioni così importanti, e poi pensare al bene del Milan tutti quanti. Alla fine quello che interessa soprattutto ai tifosi è che il Milan trovi una nuova strada, e una strada che ci porti possibilmente di nuovo ai trionfi che fino a qualche anno fa erano di casa. Filippo, Donnarumma fenomeno vero, come tutti diciamo, scriviamo, forse anche in maniera eccessiva, oppure ci sono dei rischi di crescita, diciamo? Ma voglio dire, Donnarumma è un 99, 17 anni, ormai è un giocatore che gioca in pianta stabile, una squadra di Serie A comunque importante come quella della AC Milan. È chiaro che poi nel percorso di crescita bisogna sempre stare attenti, però ecco, lui ha la capacità dal punto di vista del carattere, della personalità, di non subire l'errore commesso. Depressione. E questo l'ha dimostrato sin da quando aveva 15 anni, quando è arrivato da noi. Lui ha sempre, tra l'altro, giocato sotto età rispetto agli altri compagni. Quindi perché quello che impressiona di più è proprio questa personalità, sì. che insomma è rara. È rara soprattutto a questa età. No. Poi nelle parate, nell'uso dei piedi, insomma, chiaramente poi da noi quando è arrivato è stata un po' manna, no? Dal certo. cielo, perché comunque noi abbiamo sempre cercato in settore giovanile, almeno da mai da 3 stagioni a questa parte, di coinvolgere molto il portiere con l'uso dei piedi, e quindi insomma il suo arrivo e la possibilità di avere un giocatore così anche per noi è stato fondamentale per smuovere un po' tutto il movimento e la proposta di un certo tipo di calcio. E di questo non so se sei d'accordo, bisogna anche dare atto a Mihajlovic, che sicuramente al Milan non ha vissuto la sua migliore stagione, però insomma diamo a Sinisa quel che è di Sinisa. Sinisa ha avuto grande coraggio, così come Domani che lo ha fatto crescere in prima squadra, l'ha aiutato, e così come tutti gli allenatori dei portieri che lui ha avuto durante il periodo in cui è stato nel settore giovanile. Ripeto, come dicevo prima, i meriti credo che sia giusto sempre dividerli. Assolutamente. Senti, Locatelli, per chiudere, può prendere diciamo il posto, è già pronto secondo te per prendere il posto di Montolivo? È un giovanissimo, è un 98, quindi... Guarda Filippo, ieri sera ho visto, io sono appassionato di basket come sai, ieri sera ho visto Real Madrid Olympiacos. Nel Real Madrid gioca Doncic, classe 1999, ed è un giocatore clamoroso, con una personalità clamorosa. È stato preso da sloveno, è arrivato al Real Madrid che aveva 12 anni ed è un fenomeno assoluto. Questo lo metto tra parentesi. Sono le eccezioni che confermano la regola, forse, ecco, questo ben venga per lui. Io con Di Manuel conosco il suo carattere, la sua forza morale, le sue capacità tecniche, tattiche, però adesso la gestione è di mister Montella, che lui saprà sicuramente cogliere il momento, cogliere l'attimo, capire le sensazioni, capire se metterlo in campo con il Chievo o no. Davvero io credo che lì si debba essere vivere la settimana, vivere il momento, e chi meglio di Montella lo potrà fare. Quindi la decisione che prenderà Montella sarà sicuramente quella più ponderata, e quella che avrà più elementi, perché solo lui ha tutti gli elementi per poter decidere. Certo. Grazie Filippo. Grazie a voi. Ciao. Tu cosa ne pensi? Ciao. No, io penso che ci debba essere un po' di coraggio. Cioè, io penso che, a proposito del capitolo giovani, noi siamo un popolo abbastanza conservatore, che non è sbagliato, non è che sia per forza sbagliato, però siamo abituati da sempre, secondo me, a fare le cose con molta calma. Va bene, insomma, per carità, si può fare, però insomma tante volte ci siamo trovati, secondo me, a invidiare la sfrontatezza e il coraggio di... No, guarda caso, molto spesso sono allenatori stranieri, e questo accade anche in altri sport, sono allenatori stranieri a buttare prontamente nella mischia. Quello che ha fatto Mihajlovic l'anno scorso con Donnarumma Insomma, mi ricordo benissimo, anche perché avevo fatto la telecronaca della partita, dell'ultima partita di Lopez e della prima partita di Donnarumma. Insomma, quindi avevo vissuto proprio da vicino questa clamorosa notizia, perché era clamorosa. Insomma, stiamo parlando di un portiere che è stato un portiere del Real Madrid, che aveva comunque una carriera molto solida alle spalle, che aveva sì fatto degli errori, ma non nemmeno così clamorosi, no? Però evidentemente il talento di Donnarumma si faceva sentire, spingeva, e lì è stato molto bravo Sinisa nel dargli fiducia. Quindi, tornando al punto di partenza di questa discussione, ripeto, premesso che non è che la patente dell'essere giovane ti debba dare un vantaggio, però in assoluto, secondo me, insomma, seminare è utile. Cioè, quando Ventura l'altro giorno dice che ci sono 5 giocatori dal 90 in poi, è un dato oggettivo, è un dato che potrà essere molto utile, secondo me, alla nazionale del futuro. Certamente. No, ma poi stavo facendo questo discorso perché mi riallaccio di nuovo al basket. Un giorno parlavo con mio amico Sasha Giorgiovic anni fa, quando era allenatore di Milano, e mi disse: l'anno prossimo arriva da noi Gallinari, che aveva 19 anni. Per me entra in quintetto e non esce più, perché si vede sì, comunque, sì, certo, che è un grande giocatore. Quindi io trovo che spesso siano gli allenatori stranieri ad avere questo maggiore coraggio nel mettere in campo e anche nel caricare di responsabilità. Il signor Luka Doncic, 11 punti, 17 minuti, 5 su 5 al tiro. Devi vederlo giocare. Una personalità all'interno della squadra clamorosa. Ci fermiamo per la borsa. Andrea da Treviso e Mario dalla provincia di Como, state lì, parliamo subito dopo. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro le notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Dunque, con Pierluigi Pardo qui presente, qui c'era un ascoltatore. Spogliatoi a pezzi come il tonno, c'è De Luca che mi ha appena insultato dietro il vetro. Sì, ha fatto un gesto alla Pelé. Un gesto alla Pelé o alla Chinaglia, insomma, non è carino. Sì. Dopo tutto quello che ho fatto per lui, l'ho portato, siamo stati a pranzo insieme. Alla fine ha pagato lui, devo dire la verità. Però insomma, io da 3 euro non sono bastati, ma con 3 euro non mangi, abbiamo speso 4. Non lo convochi più come. Ma no, ma io voglio bene, De Luca, io voglio bene a prescindere. Io, un ragazzo straordinario. Beh, guarda, ti addolcisco così. Complimenti a Pardo, scrive una gentile signora, una gentile ascoltatrice, per la performance di ieri sera su Italia 1, spassoso con un paio di faccine con le lingue. Grazie, per il momento ho evitato il divorzio e pare anche il licenziamento, quindi per il momento la situazione è sotto controllo. Sì, dopo aver ballato dentro una magliettona con Katia Follesa a Sereie, una pagina veramente indimenticabile. Andrea, confido, diciamo, nel vostro buon cuore, ecco, prego. Andrea. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Mi avete anticipato, perché volevo fare anche io i complimenti a Pardo per le sue prestazioni di ieri sera. Grazie. E come dice mio cugino Leo. Cosa dice suo cugino Leo che ci saluterà Pardo con affetto? In qualunque ambito si impegni ha sempre grandissimi risultati. Infatti è stato meraviglioso. Nel ballo un po' meno. Nel ballo un po' meno, però. Ah, insomma, sì, sì, sì, grazie, grazie. Beh, ma lo vedrà al prossimo, prossimo festival di Sanremo. Sì. In... Cioè, lo presenta lui, se, Carlo, se non canta lo presenta. Quindi... C'è Carlo Conti che è bravo. No, dobbiamo ancora decidere se farlo cantare o farlo presentare. Io sono per... per la, la presentazione, però insomma c'è un referendum in atto che si terrà a dicembre. Poi andiamo oltre, dica. Poi volevo dire, chiedere a voi, secondo voi uno dei problemi del Milan non è che adesso non si sa chi comanda, perché forse il Milan si sta anche adeguando alle nuove proprietà, visto che la proprietà è un fondo, il Milan sta andando a fondo, sarà questo? Beh, intanto è stato scelto un uomo come Fassone. E poi che in questo momento non sta andando a fondo il Milan, in un modo o nell'altro, con partite anche abbastanza... Milan-Sassuolo è una partita condizionata dagli episodi arbitrali, lo diciamo perché è una partita dove sono successe cose clamorose, però, ripeto, è stata condizionata dagli episodi arbitrali, ci mancherebbe. Però poi il Milan è stato anche bravo ad approfittare e comunque a perfezionare una grande rimonta. A me sembra una squadra in crescita. Dove potrà arrivare non lo so. Io penso che non sia da prime tre, francamente. Penso che sia invece... No, però Montella sta facendo un grande lavoro. Sta facendo un grande lavoro. Però sta facendo bene e si rivede, secondo me, un allenatore adatto al Milan, alla mentalità del Milan. Prima abbiamo parlato di Mihajlovic, che è adattissimo al Torino, e perfetto, lo si vede, no? Perfetto, Montella perfetto. Ha un tipo di calcio che secondo me invece si adatta perfettamente al solco della tradizione rossonera. Mario? Sì, sono io. Eccolo, io sono Carlo Genta. Lui è Pierluigi Pardo. Buongiorno. C'è anche De Luca, sei ancora arrabbiato con me? No, abbiamo fatto pace, meno male. Attraverso tutto il vetro. Bene, quel che finisce bene. Tutto attraverso il vetro, clamoroso. Adesso gli compro succedono una caramella di lupo cose Alberto. Che voi umani non avete lui mai potuto pazzo per immaginare. Le caramelle di lupo Alberto, è una cosa, è la sua debolezza. Io sono pazzo per il pasticciotto leccese e lui per le caramelle di lupo Alberto. Siete prego, malati, ragazzi. Siamo malati, sì, prego, prego, prego, prego. Mario, dica. Sì, buongiorno, niente, volevo soltanto riguardo a Maldini. Io premetto che sono milanista nel DNA, quindi potrei essere parte. Mi sono preso la briga di vedere tutto quello che aveva scritto su Facebook e non parla assolutamente di non credo nel progetto o altre cose sono state dette erronee. Dice semplicemente che se doveva fare il direttore sportivo o direttore tecnico ce n'era già uno e farlo in due non va bene, per serietà non lo fa. Ieri c'era un vostro collega giornalista che parlava di vitalizio di questi ex campioni. Non mi sembra che rientri in questa categoria Maldini. No, no, assolutamente. Guarda, io dico sinceramente, Maldini, ammesso che abbia queste sue asprezze caratteriali, questo suo essere, diciamo, non troppo incline al compromesso, sì, sì. E probabilmente è così, lo diceva in qualche modo anche Ambrosini in quella dichiarazione che abbiamo fatto sentire ieri, se questo è vero sicuramente che ne sta pagando le conseguenze, perché che una figura come leggendaria, come quella di Paolo Maldini, grandissimo calciatore, ragazzo intelligente, credo senza alcun dubbio, non abbia un posto oggi, non percepisca uno stipendio da nessuna parte nel mondo del calcio, al di là dell'avventura che ha avuto con Miami. Beh, questo in qualche modo è perché evidentemente non si è voluto. Lui si è sentito un po' come la bandiera che voleva essere issata fuori dal balcone. Ma ognuno della vita, guarda, io posso dire che ognuno della vita deve fare quello che vuole. Beh, esatto. Io sono iperlaico da questo punto di vista. Quello che io mi sentirei di consigliare in assoluto e di dire in assoluto come principio generale è che la vita di un grande calciatore, di un grandissimo calciatore in questo caso, comunque ricomincia da 0-0. C'è un'intera letteratura, oggi stiamo celebrando Bob Dylan, che è uno dei miti di Francesco De Gregori. Francesco De Gregori, in una delle sue canzoni più importanti, parla della crisi, della depressione, la depressione è una cosa seria, ma insomma del senso di vuoto che lascia una grande carriera vissuta nello sport e di come ci si finisca veramente a ridere dentro al bar. Oggi ovviamente c'è una carriera molto più strutturata anche nel post attività agonistica, però non tutti la possono fare, si riparte da 0-0 e probabilmente certe sprezze caratteriali o semplicemente la voglia di non fare troppi compromessi gli ha fatto perdere qualche treno. Però questo è anche bello da un certo punto di vista, perché sì, ognuno sì, sì, è come deve essere, no, ognuno è come deve essere. È come deve essere, poi ognuno ha la sua opinione, se la tiene. Io sono amico di Cassano, che è l'uomo che ha rifiutato i compromessi nella sua vita praticamente sempre, sì. E gli voglio bene e penso che abbia fatto un po' di cazzate ogni tanto, però le ha fatte perché è fatto così ed è stato libero nel fare così. E ne ha pagato le conseguenze, chi se ne frega, cioè non so come dirti, no, certo. E allo stesso modo prendi delle decisioni e poi capita quello poi che capita. Poi noi non sappiamo ovviamente quello che si sono detti Fassone e Maldini. Diamo una pennellata di Walter Novelli. Ma sicuramente, come va, maestro? Guarda che ha ragione, ma che se ne frega, Poi se uno è un campione deve farlo per forza, Maldini mi ha detto che lo deve fare per forza. Se, no, se il progetto non gli va, bah, ha fatto bene a dirgli no. Secondo me, sì, sì, perché l'alternovellino sono io. Lo so che sei l'alternovellino, perché la ricetta per la felicità non è che ne esiste solo una, ognuno è come gli pare, no? Quindi, no, assolutamente. C'è la famiglia, ci sono gli amici, ci sono altri progetti nella vita. È ovvio che Maldini non è uno stupido, è un progetto, non gli piace, non è mica gli hanno obbligatorio di sì, perché l'ex bandiera deve per forza dirsi sì a un progetto se poi non gli piace. Ecco, appunto, ma secondo te il Milan in questo momento di transizione dovrebbe... Sono stati fatti altri nomi, lo dicevamo ieri, da Albertini ad Ambrosini. Dovrebbe perseguire comunque la strada di una certa continuità col passato oppure no? Ma secondo me no. La vita va avanti, viviamo in un'epoca dove il mondo va velocemente, non si può ricordare di remember, ricordarsi sempre del passato. Io credo che ci sono dei punti dove la Cina è il numero uno in tutto. Io credo che, non so poi se hanno comprato i cinesi, eccetera eccetera, intanto i cinesi devono comprarsi devono comprarsi la qualificazione ai mondiali, perché è l'unico modo possibile. Conta fino a un certo punto, però il discorso va avanti, insomma, la vita va avanti. Milano è diventata ancora più bella da quando c'ero io, insomma. Non si può guardare il passato. Senti, stanno per arrivare due amiche, una ti fa per il Napoli, l'altra per la Roma, fra poco le coinvolgiamo, ma intanto ce la inquadri tecnicamente questa Napoli-Roma? Beh, il Napoli è una squadra che dà la profondità, è una perdita importante, perché non volendo ti dava quella profondità, ti dava quell'ampiezza, che adesso deve un po' trasformare un po' tutto, con Gabbiadini, che a me è un giocatore straordinario, mi piace molto. È chiaro che viene molto incontro alla palla, riceve la palla non attaccando gli spazi, però io credo che se lui dovesse giocare con i due esterni un po' più stretti verso Gabbiadini, sia Caicono, Martens o Insigne, a me piace molto Insigne, che Insigne in questo caso servirebbe un po' di più, perché è uno che salta di più l'uomo, che si fa l'uno contro uno. Questo è il Napoli, che in questo momento è la squadra che secondo me gioca meglio di tutti. Sì. La Roma è una squadra che con Totti dentro si è trasformata in personalità, in determinazione, in carattere, perché Totti è un caratteriale, uno che quando è in campo lo si sente, lo si vede. La fase difensiva della Roma a me onestamente non piace molto, ma io credo che Spalletti è molto bravo in questo. Dove noi siamo molto bravi nella fase difensiva, dicono, siamo un po' peggiorati, perché i difensori non li costruiamo neanche più. No, questo è vero. Secondo il mio punto di vista, io sto allenando la Don Bosco, i ragazzini, le nuove metodologie di lavoro, fin quando non trovo lavoro e mi diverto tanto a insegnare. Questo posso capirlo. Intanto ti saluto con questo messaggio: mi salutate Novellino, con cui ho giocato a bocce in spiaggia quest'estate, ha fatto felici i miei figli giocando con loro a calcio, un signore, Carlo da Bergamo. Ti saluta Carlo da Bergamo, con cui hai giocato a bocce. Mi dedico anche a bocce, Tra poco Napoli-Roma in rosa. Grazie mister Novellino. Intanto maestro Novellino. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Napoli vince domenica con la Roma? O sabato, non lo so quando gioca, però sabato va bene. E speriamo che Gabbiadini possa rincontrarsi con il gol nei primi minuti, così prende fiducia, perché fa sparire Milik nella testa di lui, sicuramente sarà molto forte in questo momento. Io sempre sto vicino a Napoli, in qualsiasi momento vengo a mangiare a casa di Bebe Bruscolotti, di Mary. E questo l'avrete capito. Questo dobbiamo svelare l'arcano. De Luca ha detto: no, non lo mando, non lo mando. Cioè, prima, prima l'ha proposto, prima poi l'ha proposto, detto: non lo mando. No, una questa è una gufata. Ma quando è che mi diventi svizzero? Quando è che mi diventi un po' cartesiano, De Luca? Anna Trieste, digli qualcosa. Allora, guardate caso, viene qua Pardo e spuntano come fiori, voci, Anna Trieste, Francesco Brianza, c'è Napoli tutti convocati. Capito? Ma io sono felicemente sposato da 2 anni e 2 giorni, quindi sto non c'è tanti proprio auguri. Ti grazie. Auguri. Sì, auguri. No, sono sposato da 2 anni, non è mi devi fare gli auguri, cioè 2 anni e 2 giorni. Allora, non fate la curva sud o la curva AB. Allora, Trieste, è una gufata, ha ragione De Luca che non doveva far sentire Maradona. Ha assolutamente ragione, però no, vabbè, ma non perché Maradona, però diciamo ha ragione per quanto riguarda il pronostico. Invece, essendo Maradona, lui va oltre, può dire quello che con quella bocca può dire quello che vuole, con questi dischi può dire quello che vuole. Ecco, quindi lo si perdona a prescindere. Hai sentito cosa ha detto Silvio Orlando? Hai sentito cosa ha detto Silvio Orlando? L'abbiamo... E non essendo Maradona, sono un po' preoccupata su quello che ha detto. Ha detto: scusatemi, aggiornatemi. No, guarda, se adesso lo ripesco te lo faccio sentire quello che ha detto Silvio Orlando sul Napoli. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Intanto chiedo alla Brienza come la vede invece lei da Roma questa partita. Ma io la vedo soleggiata, nel senso che purtroppo per il Napoli abbiamo questa fortuna di non avere Milik, a cui comunque facciamo un forte in bocca al lupo, ovviamente, perché la sportività prima di tutto. Però parlano anche i numeri: 49 vittorie della Roma, 40 quelle del Napoli. Storicamente il Napoli di Sarri alla Roma riesce a segnare poco. Insomma, quindi io ho tutte le buone prospettive per pensare almeno a un 2-1 per la Roma. Ecco, un 2-1 per la Roma. 2-1 non firmeresti neanche il pareggio, vuoi andare a vincere fuori casa? Ma guarda, il pareggio, ti dico, quest'anno lo accetterei meglio perché mi sono un po' gemellata, visto che ci hanno rubato Pjanic, gli hanno rubato Higuain. A questo punto vogliamoci bene e il pareggio ci può anche stare. Tu dai, sai che ma questo proprio tema, nella peggiore delle ipotesi. Questo ecco. Tema del gemellaggio, poi magari domani ne riparleremo, è un tema che insomma scorre sotto traccia, ovviamente. Che riportano la realtà degli anni Ottanta, poi sono successe cose purtroppo molto, molto spiacevoli, però insomma c'è una timida voce che si sta rialzando, in qualche modo daremo forza a questa voce, proprio perché mi sembra abbastanza assurdo la guerra in assoluto, perché poi sai c'è sempre the dark side of the moon dei gemellaggi, e che spesso quando ci sono due tifoserie gemellate ce l'hanno con qualcun altro, quindi sì, quello che uno vorrebbe è la civiltà a prescindere, però in certi casi l'amicizia che c'è fra alcune tifoserie è qualcosa di speciale. Che abbiamo Silvio Orlando? Volevo far sentire alla signorina Trieste Silvio Orlando. Penso che serva di lezione a tanti napoletani che hanno buttato tante bestemmie su Higuain e ci sono tornate addosso proprio in una maniera così potente che hanno fatto sì che il nostro centravanti si facesse male per 4 mesi. Ecco, questa è una lezione che forse è epocale per la città di Napoli e per tutti i suoi riti scaramantici. Fino a finiamo di credere nel vitello d'oro da adorare, ma più in una squadra, in un collettivo, una squadra che vuole, che c'ha Sarri in mente. Beh, questo mi sembra. Ha capito, signore Trieste. Quindi il vitello d'oro sarebbe Higuain. Vabbè, comunque, a parte questo, volevo dire che in realtà c'è un proverbio napoletano che va nella direzione della tesi, insomma, espressa da Silvio Orlando: dice chi vuole la morte, chi va mortellata, so stare da forza. Cioè, chi desidera la morte altrui trova la propria dietro la porta della Danimarca, in particolare. Però, al la Danimarca. Di là di questo. Vabbè, sì, ci vogliamo dimenticare che poi è successo a Milik quando pensavo all'Amleto per un attimo, scusami. Che voi non siete vicini alle vicende stavo pensando all'Amleto, sì, no, scusami, certo, ci mancherebbe, te la porta da Danimarca. Però c'è del marcio in Danimarca e Vestergaard, ma al di là di questo volevo dire che però io non tendo a credere a questa tesi per un motivo molto semplice, perché se vogliamo parlare di karma, visto quello che dicono che deve succedere a Napoli, c'è un'eruzione scoppiettante, cioè dovrebbero verificarsi cose assurde in metà tre quarti delle città italiane. Facciamo così, certo. Facciamo, non auguriamo nessuna sfiga da nessuna parte del mondo, parte né a Napoli mondo. Né contro Napoli, né contro Napoli, né a Higuain né a Milik, volemo se bene, come diciamo a Roma, a Napoli come si dice, volemo se bene, uguale. Ciamavule bene. Manco De Luca lo dice così bene, neanche Marta Cagnola che è comparsa. Ma De Luca è deluso un po' milanizzato, poi la Marrichia. No, non è, ma non no, è così. Svizzero. Poi ne parliamo. Ragazzi, grazie Francesca Breccia. La Cagnola ci ricorda che domani esce il disco di Busta, il disco di Busta. Che ridi? Mica fa ridi, il disco di Busta. Grande tifoso del Toro, fra poco ripartiamo. Dai GR. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Il segnale orario vi è offerto da L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Namo, let's go. Tutti convocati. Andiamo, let's go, Pardo. Andiamo, Dimo, famo. Dimo, famo, baciamo, lettera, testamento, Antonio. Anzi, prima per Francesco, che era lì già da prima del GR. Andiamo con ordine, dica. Grazie, buonasera. Sì, c'è buio, ma comunque buon pomeriggio. No, vi rubo pochissimo tempo, grazie. Prego, prego. Le faccio una domanda. Lei, dottor Zenta, quando è stato assunto al Sole 24 Ore, è stato assunto come un buon livello, un giornalista, e poi ha fatto un po' di gavetta prima di arrivare alla direzione del programma, giusto? Poi ha messo in mostra le sue capacità, così lei come Pardo e qualche altro suo collega. Cioè, stiamo diffondendo i nostri curricula. No, non li voglio sapere, vi conosco perché vi ascolto sempre, sì. E anche simpatici, ecco, questo è quanto. Va bene, quindi il buon Paolo Maldini, grandissima famiglia, bravissimi ragazzi e grandissimo giocatore, secondo me ha peccato un po' di presunzione, perché lui, secondo il mio punto di vista, per l'amor di Dio, lui doveva accettare la carica di direttore sportivo e poi in corso d'opera mettere in mostra le sue capacità, ammesso che ne abbia da dirigente. Rifiutare così, secondo me, è stato un po' sbagliato, ecco, e ha peccato un po' di presunzione. Questo è il mio pensiero. E ha tutti i diritti di tenerselo. Una grandissima famiglia e bravissime persone tutte, da Paolo ai fratelli, al nessuno, padre. Questo non, questo non, nessuno lo ha mai messo in discussione per Francesco. Certo. Poi no, ognuno ha la sua opinione. Ognuno fa quello che vuole e quello che gli pare. Ci sta come ragionamento. Ammesso che sia così come appare, no? Nel senso che poi alla fine. Non è che nessuno di noi era in quella stanza del colloquio fra lui e Fassone, quindi non sappiamo esattamente tutti i dettagli. Dovendogli dare un consiglio d'amico dall'esterno, uno può tranquillamente sostenere: Paolo, vai e poi vedrai che, siccome sei intelligente, sei bravo, avranno bisogno di te e crescerai. Però è anche vero che se uno non se la sente di entrare, se i presupposti non sono buoni, può farlo. Insomma, questa è una vicenda alla fine molto personale. Quello che mi è dispiaciuto è che secondo me c'è stata un po' di confusione, no? Dal punto di vista della comunicazione, cioè mi sembra che da questo punto di vista il tweet, o meglio il post su Facebook, sia stato molto più riuscito e molto più convincente rispetto a quanto scritto a botta calda, no? Sì, a quanto detto a botta calda. Antonio? Pronto? Sì. Pronto? Ci dica. Salve, senta, io volevo commentare l'intervento di Mondonico. Sì. Che riguarda i giovani. Parlo a 360 gradi, cioè non soltanto della Serie A, ma anche della Serie B e altre serie minori, perché sì. Ho seguito varie squadre, tra cui la FIA, insomma, perché sono di Avellino, dalla Serie D a salire. E ho visto che in effetti la politica dei giovani non è soltanto legata al discorso di merito o roba simile, ma è legato anche a una questione economica. Perché per i giovani che vengono lanciati ormai ci sono, c'è un entourage di procuratori, di riscatti, contro riscatti, io ti do questo giovane, me lo valorizzi, domani te ne darò altri due, insomma c'è tutto un gioco dal punto di vista economico che Mondonico non ha preso in considerazione, ha parlato soltanto di meritocrazia e sì, sono d'accordo. Siamo rimasti ad un livello diciamo più, magari più superficiale, poi su tutte queste attività sotterranee, compravendite. No, ma semplicemente il discorso, no, ma il discorso, guardi Antonio, no. Il discorso che abbiamo fatto è molto semplice. Mondonico ha detto: ma bisogna far giocare i giovani perché sono di moda o perché sono bravi? E questo è il discorso che ha fatto e che ha aperto un dibattito. Ora però vorrei cambiare argomento con il professor Franco Arturi, che sulla pagina delle opinioni della Gazzetta dello Sport di ieri, pagina 19, sotto il titolo "Ma le scommesse sono il demonio?" con il punto interrogativo, scrive qualcosa di molto interessante e magari di piuttosto impopolare, partendo da queste parole, dalla vicenda Intralot e Nazionale. Dentro il termine moralismo, parola vuota di significato a mio avviso, e quindi ritengo che chi è intervenuto contro non sia solo in buona fede, ma lo faccia richiamandosi a valori etici e criteri di opportunità. Poi approfondiamo il discorso, intanto saluto Franco Arturi. Ciao. Grazie, anche se devo francamente restituire il professore a Pardo. Ma noi qua Pardo, Franco, diamo sì, tanto sì. Sono gratis questi, sono vezzeggiativi, però insomma... Grazie a tutti. C'è troppo politicamente corretto, c'è un po' di ipocrisia? No, ignoranza e una arretratezza di tipo sociale su questo argomento in Italia, perché se noi aprissimo un argomento di questo genere, per esempio in Inghilterra, faremmo ridere, perché replicherebbero: ma di che cosa state o stiamo parlando? Cioè, c'è, inutile negarlo, una forte corrente, io li chiamo di integralisti proibizionisti, e sappiamo il proibizionismo che fine ha fatto nel mondo su vari argomenti, che vorrebbero spazzar via in un colpo solo azzardo, scommesse, eccetera. E tu fai una netta distinzione tra azzardo e scommessa nel tuo pezzo. È assolutamente fondamentale. La scommessa è quello che si fa conoscendo la materia anche a fondo, ed è una sfida con se stessi, con il mondo. Io, vedrete, ne so di più perché ho studiato la materia, è un'attività che ha l'età dell'uomo, che ha in sé il senso della misura, che non può sfociare nella ludopatia, ed è l'opposto dell'azzardo, dove si punta in una situazione di casualità estrema, rosso, nero, senza nessuna... Certo. Competenza, cioè nelle scommesse c'è anche l'elemento competenza in generale e in assoluto. No, scusami se ti interrompo, ci deve essere solo quella. Se non c'è quella, io domani preannuncio, magari anche i vostri ascoltatori, ci sarà la seconda puntata, perché sull'argomento ho ricevuto una tale massa di lettere che mi ha convinto essere una cosa che interessa al pubblico. Allora, immagino per la maggior parte contrario, o mi sbaglio? No, ti sbagli. Ah, mi sbaglio. Per la maggior parte sono di persone che finalmente facciamo una distinzione fra scommesse e azzardo. Naturalmente c'è anche qualche contrario che mi segnala che un player delle scommesse che sponsorizza la FIGC ha proposto questo tipo di giocata, una giocata multipla, cioè per vincere bisogna indovinare tutti i risultati di queste 5 partite: una partita del campionato keniano, una partita della Serie B moldava, due partite della Serie A di calcio femminile spagnolo e un'altra partita che non ricordo bene, probabilmente un pochettino meno folcloristica. Allora, questa non è una scommessa. Questa è ancora peggio che non giocare lo 0 e il 36. Ci sono anche, va detto su questo, tutta una serie di fattispecie di scommesse legate anche a partite importanti abbastanza di questo genere. Penso alla possibilità di scommettere gol dispari o pari, i calci d'angolo, cioè c'è tutta una serie di situazioni che secondo me strizzano l'occhio a questo. Sì, certo, io non lo nego. Tutto questo non appartiene alla radice semantica della parola scommessa. Sono puntate d'azzardo. Certo, c'è una zona grigia fra l'una e l'altra cosa, ma la cosa che mi premeva è: non si può demonizzare chi gioca 10 euro su un cavallo dopo aver studiato i programmi di un'intera stagione dopo averlo guardato al tondino, dopo aver visto se è sudato o no, dopo aver sentito il terreno, magari averlo visto lavorare, chiamare azzardo questo è una follia antistorica. E quindi cominciamo a mettere ordine nella materia e poi ne parliamo. L'altra cosa è che l'azzardo, che a me non piace, annoia profondamente e non piace proprio, tuttavia nel mondo esiste ed è legale nei suoi ambiti in Italia, certo, ma c'è. Certo. E quindi con questo ci dobbiamo fare i conti. Fare i conti, no, nei sogni del proibizionista significa azzerare tutto, ma molto più realisticamente significa fornire ai ragazzi soprattutto delle chiavi di lettura e di interpretazione del fenomeno, un'educazione in seno alle famiglie, in seno alla scuola, eccetera, eccetera, avvisando i rischi. Io scrivevo poi che nessuno si sogna di abolire il vino se in Italia c'è il 18% di etilisti. Assolutamente. Perché il vino è un colosso economico e aggiungo anche culturale, giusto? Ma molto banalmente, quasi tutte le cose della vita, anche le migliori, poi vanno fatte con moderazione, nel senso che certo, e poi è sempre l'esagerazione. Il cibo si muore, è no? Molto interessante. Franco, torniamo a parlarne sicuramente nei prossimi giorni, perché secondo me questo elemento, da un lato, è un elemento di scarsa conoscenza, appunto, della divisione fra scommessa competente, fra gioco e azzardo vero e proprio, dall'altra c'è anche un po' una componente moralistica di politicamente corretto. Secondo me, se un business è legale, allora se è legale, la nazionale può avere anche il marchio. Ecco. Poi Franco Artori scrive anche: poi non sarà il massimo della vita, sarebbe meglio avere una bella marca di pasta italiana o di pomodori italiani. Sì, sarebbe più bello, più elegante, forse, però non si. Insomma, le interpellanze parlamentari mi piacciono Franco poco. Franco Artori, la prossima volta ne parliamo, scrive: ne succedevano di peggio quando le scommesse erano illegali. Assolutamente. Coinvolgo Andrea Montemurro, che è uno dei candidati alla presidenza della federazione. Salutiamo Franco Arturi, lo salutiamo assolutamente. Grazie, arrivederci. Grazie Franco, ci sentiamo presto. Andrea, tu sei un candidato importante, insomma, ovviamente ci saranno delle elezioni per la federazione di calcio a 5. Ti posso coinvolgere su questo tema? Non so se hai seguito il discorso di Franco Arturi su questo sponsor Intralot, lo possiamo dire, della nazionale. Sulla maglia della nazionale di calcio a 5, se si presentasse uno sponsor danaroso. Intralot non andrà sulla maglia della nazionale. No, esatto, ma voglio dirti, cioè, se si presentasse un'opportunità di questo tipo, va accolta, oppure invece un po' più moralisticamente bisogna dire di no a queste tentazioni? Ma io ritengo sinceramente che vada accolta, perché giustamente, come dicevate adesso, se è legale vuol dire che è possibile anche renderla nota attraverso una manifestazione sulla maglia, credo, no? Quindi comunque tutto quello che rientra ancora in una decenza, in una moralità giusta, ritengo che possa essere sponsorizzata anche attraverso lo sport. Si parla poco di calcio a 5, che in realtà però è un compagno di viaggio e di vita di milioni di ragazzi italiani. Tu sei assolutamente. Cioè, è veramente uno degli sport, alzi, credo, la a livello mano, maschile. O la voce chi non ha mai fatto il calcetto con gli amici. Allora, il calcio a 5 in realtà è lo sport più praticato in Italia, assolutamente. Soffre un pochino di quello che è poca evidenza mediatica, e stiamo cercando di riparare questo, perché in realtà quello che poi si svolge banalmente sui campi tutti i giorni, quello chiamato calcetto, in realtà ha una sua realtà, una sua dignità a tutti i livelli, a livello nazionale e a livello internazionale. Per cui speriamo che molti comprendano che quello che poi praticano insieme agli amici la sera alle 10 in realtà ha una sua dignità di Serie A. Valenza la sport. Senti, tu vieni da un bel successo nel volley, come si rilancia in 30 secondi il calcio a 5, ovviamente, se verrai eletto presidente? Poi, insomma. Allora, il calcio a 5 si rilancia attraverso tre punti essenziali. Uno è quello appunto della mediaticità, quindi dare assolutamente risalto mediatico a questo sport, che è proprio uno sport incredibilmente divertente. Quindi è la prima cosa assolutamente che bisogna fare. La seconda è una di quelle che dicevamo prima, quindi portare sponsorizzazioni per cercare di sostenere le squadre a far diventare questo sport sempre più importante. La terza è ridare centralità alle società, quindi maggiore attenzione alle società, cosa, questi tre punti che sono molto mancati negli ultimi 20 anni. Ecco perché purtroppo non associamo in molti il calcio a 5 a quello che chiamiamo banalmente calcetto. Sì. Quindi bisogna in qualche modo rendere partecipe il fatto che quello che è uno sport di divertimento, chiamiamolo, anche io lo chiamo lo sport dell'amicizia, perché è uno sport dove 5 persone possono decidere banalmente da un giorno all'altro di fare un campionato anche importante, Questo sport ha una sua valenza a livello nazionale molto importante attraverso delle squadre che si rappresentano addirittura a livello europeo, insomma, quindi comunque ha una sua valenza. Abbiamo anche una grande tradizione. Andrea, no, sì. Aspetta, posso fare certo. Un'ultima domanda di un'ingenuità quasi fanciullesca? Ma, sì, sì. Ad esempio, stavo pensando al soccer americano, cioè sì. Coinvolgere ex grandi giocatori, coinvolgere personaggi, potrebbe tipo il calcetto dei campioni che c'erano 15 anni fa su Telepiù, no? Ti ricordi? No, ma poi, molto sai, divertente. Io vedevo anche il beach soccer giocato da giocatori coinvolgere delle vecchie glorie, delle medie vecchie giovani medie, più insomma glorie. La vedo dura. Guarda, è qualcosa che va fatto secondo me non a livello di giocatori in campo, ma vanno coinvolti i grandi del calcio, come ho fatto io in questi giorni con Hernan Crespo, per cercare di avere da loro un'apertura sul calcio, perché in pochi sanno che nel resto del mondo il calcio a 5 è proprietario per il calcio, cioè i vari Ronaldinho, Giggs, Ronaldo, sì, ma via discorrendo, Hernan e così via discorrendo, vengono tutti da esperienze di futsal, quindi in realtà il calcio a 5 è proprietario per il calcio, quindi servono dei grandi testimonial, come ho fatto io in questi giorni con Hernan Crespo, che dicono proprio questo, cioè il calcio a 5 mi è stato di aiuto per diventare un grande del calcio. È il caso in questi giorni di Higuaín che lo ha dichiarato apertamente, ma anche lo stesso Messi, cioè tutti nei paesi del Sud America, ma anche in Spagna e in Portogallo, fino agli 8 o 9 anni giocano esclusivamente a futsal, perché sì. Il calcio a 5, detto anche futsal nel resto del mondo, dà delle dinamiche per il giocatore, tecniche e sì, beh, chiaro. No, ma anche uno degli esercizi, anche uno degli esercizi più diffusi durante gli allenamenti delle squadre 11 certo, è certo, quello con certo, le porticine certo. E col campo proprio per aumentare quindi, l'intensità. Spazi quindi, ridotti diventa più difficile giocare. Coinvolgere questi grandi campioni per far capire alle squadre anche italiane professionistiche che il futsal può essere propedeutico per far diventare grandi campioni, i bambini che attualmente assolutamente sono a casa. Grazie Andrea, a presto. In bocca al lupo, ovviamente. In bocca al lupo ad Andrea. A te, ad Andrea. E agli altri candidati, ci mancherebbe altro, ma insomma, in bocca al lupo a tutto il movimento del calcio a 5. A proposito, prima parlavamo di scommesse. Sono arrivati una marea di messaggi. Sono arrivati una marea di messaggi. Le sigarette sono legali, ma non si possono più pubblicizzare, dice Davide. Sì. L'esempio del Liverpool che anche dopo l'Aizel firmò un contratto con una marca di birra e anche lì si parlò di opportunità. Gli inglesi fecero un baffo. Gli inglesi, diciamo, la cultura anglosassone è una cultura da questo punto di vista molto diversa dalla nostra. Pardon, no? Beccati questa, che intanto ci ha raggiunto già Onic. Scommette, squalificato e multato. Volevo solo divertirmi. Gioca nel 1860, Monaco sì. 1860. Ivica Olic, che pensavo avesse l'età di Matusalemme, più o meno, ha scommesso su 9 partite, multato, squalificato. Ciao, anno ciao. Di grazia 2010, ricorderete, col Bayern arrivò in finale con una suon di gol alla finale di Champions, poi persa contro l'Inter di Mourinho. Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Ho sentito delle cose interessanti, ci sono riflessioni da fare. Ad esempio il calcio a 5, il rugby a 7, che è andato anche alle Olimpiadi. Sì. A me l'idea del calcio, l'idea del calcio a 5 giocata da grandi campioni del calcio a 11 piacerebbe molto. Mm-hmm. Sono sicuro che sia propedeutica. Devo dire la verità, se posso dirlo, giocato da grandi campioni non specialisti del calcio a 5 forse sarebbe anche più attraente da vedere. Non c'è dubbio. Da giocare è divertentissimo. Sì. Ma se la nazionale di rugby fosse sponsorizzata da una società di scommesse sarebbe un casino putiferio totale, secondo te? Oppure... No, ma non credo. Certo, sai, poi il limite anche lì è un po' particolare, cioè mi spingo un po' più in là. Anche i sex shop sono legali in Italia, se però diventassero sponsor della nazionale qualcuno si porrebbe può essere qualche un fatto interrogativo può essere il punto d'immagine, io lo posso anche capire, lo posso anche accettare. Detto questo, metà delle squadre italiane hanno una partnership o sulla maglia o come sponsor con aziende di scommesse, quindi questa non sembra un po' di quale squadra tempo fa fu sponsorizzata da una nota marca di preservativi. Non lo so. Adesso te la cerco. Beh, in ogni caso sono anche d'accordo sul fatto che l'azzardo è una cosa, la scommessa sportiva è un'altra, nel senso che nella scommessa sportiva entra un fattore di abilità. Esatto, quello che stavamo dicendo. E in un certo senso anche di amore per lo sport, se non si travalicano certi limiti. Che succede nel mondo della pallovale in due minuti? Nel mondo della pallovale stiamo aspettando gli All Blacks, che saranno in Italia il 12 di novembre. Si è detto prima a Roma, poi a Milano, ma Milano non li ha voluti ed è un peccato. Giocano a Roma il 12 di novembre. Nel frattempo hanno vinto. Perché Milano non li ha voluti? Perché Milan e Inter hanno detto che non, che rovinavano il campo. Si vede che all'Olimpico hanno un'erba particolare per cui non si rovina mai. O comunque ci saranno stati dei problemi di date probabilmente superabili. Detto questo, loro intanto hanno vinto il championship battendo sia l'Australia che l'Argentina che il Sudafrica in casa e fuori. Hanno vinto 6 partite su 6, media punteggio di queste partite 44-14 per gli All Blacks, che hanno anche demolito in Sudafrica 57-15 gli Springboks 9-0. Arrivano con questa squadra fortissima, giocheranno ancora 2 partite prima di arrivare da noi, una in Nuova Zelanda con l'Australia e una a Chicago con l'Irlanda, per dire che è uno sport che si sta espandendo. Se vincono con l'Australia fanno 18 vittorie consecutive in test match internazionali ed è la migliore striscia di sempre. Vengono a giocare contro un'Italia che si sta rinnovando, O'Shea, nuovo CT, su 30 giocatori convocati ce ne sono 8 che hanno da 5 partite in giù, in azzurro, compresi 2 uncapped, come si dice, giocatori esordienti o che esordiranno. Sicuramente l'Olimpico sarà pieno, si può anche pensare che ci siano delle buone risposte di pubblico a Firenze il sabato dopo, 19 contro il Sudafrica, e a Padova in terra rugbistica veneta il 26. A Roma arbitra Nigel Owens, che è il migliore arbitro del mondo, di grande personalità, ed è uno spettacolo nello spettacolo, un po' come nel calcio per un anziano come me poteva essere bello allo stadio godersi anche un grande Concertolo Bello, che era un ballerino ed era più elegante dei giocatori. Ragazzi, dobbiamo salutare. Arriva una marea di messaggi sulle scommesse. Io sto con Arturi, ma i primi a demonizzare le scommesse sono i giornalisti, e c'è invece chi dice, chi la pensa in maniera molto contraria. C'è anche chi dice mi diverto tantissimo a scommettere. Sono d'accordo. Un giorno di voglia ci torniamo su questo argomento. Okay, perché non è interessante. No? Assolutamente. Tanto ti saluto. Quando torno ci sono troppe scommesse, posso dirtelo. È il discorso che facevo prima. Nel senso che secondo me si scommette troppo. Un conto è scommettere sulla partita. No, ma è chiaro. Ma ci sono delle scommesse legate ad alcune cose marginali che da un lato possono portare a delle... Adesso dobbiamo chiudere, se no ci sfumano. Ne parliamo. No, ma quante volte ti capita di andare dal tabaccaio e vedere la vecchietta che si compra 6 gratte e vinci uno di No, ma io tra l'altro odio il gioco d'azzardo. Quindi io pure. Sono uno che non gioca. Vabbè, ragazzi, comunque, sai quando che ne parliamo, De Luca? Domani. Ne parliamo domani. Vabbè, De Luca, vieni qua. Ehi, De Luca. Vieni qua, entra. Abbiamo finito il tempo. Intanto ringraziamo. Sì, ringraziamo De Luca, redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Grazie. No, ne parliamo domani. Grazie a Giacomo Bagnasco, naturalmente. Ciao. Have a nice day.